sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Sarebbero state presentate le tre offerte al governo tedesco per acquisire Opel e ci sarebbe naturalmente anche quella di Fiat. Polemiche sulle motivazioni della sentenza Mills, Franceschini attacca, il premier viene in Parlamento per autoassolversi. Ancora un forte calo per fatturato e ordinativi dell'industria a marzo, meno 22,6% per il giro d'affari, meno 26% per gli ordini. Boom di richieste per il servizio civile, sono il doppio dei posti disponibili. Pirateria audiovisiva nel 2008 aumentano di 5 volte il numero di CD e DVD sequestrati dalla Guardia di Finanza. Nuova tappa del passaggio dall'analogico al digitale terrestre, da oggi si cambia a Torino, Cuneo e nell'Astigiano. E il Festival di Cannes celebra oggi il cinema italiano. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Una buona giornata anche da Simone Spezia. Ed è una giornata importante per Fiat. Ufficialmente il termine scade alle 18, ma secondo quanto riferito dal portavoce della divisione europea di General Motors, sono state già presentate al governo tedesco tre offerte per rilevare il controllo di Opel, che dipende appunto attualmente da GM. Già alla fine della settimana una delegazione del governo di Berlino potrebbe volare a Detroit per incontrare i vertici della casa madre, ma non è solo il lingotto ad essere in corsa per l'acquisizione. I giocatori a questo tavolo sono tre, ma è verosimile pensare che la partita si giocherà tra Fiat e Magna. Il fondo americano Ripplewood presenterà la sua offerta, ma in pochi scommettono sulla possibilità che possa incidere sulle sorti di Opel. Sorti quanto mai incerte, perché General Motors, la controllante, è a un passo dalla bancarotta. Se la prossima settimana scattasse la procedura fallimentare, per Opel si profilerebbe l'insolvenza. Per questo il governo tedesco avrebbe raggiunto un accordo con le banche per assicurare alla casa automobilistica un prestito ponte da oltre 1,5 miliardi di euro. La Merkel ha promesso che Opel non fallirà e a Torino sono convinti che la Fiat sia in grado di fare in modo che la promessa venga mantenuta. Come? Con asset e non soldi in contanti, perché, ha spiegato Marchionne, i soldi finiscono mentre le attività che producono soldi, quelle non finiscono. Il piano dovrebbe confermare l'intenzione di creare un gruppo europeo. La D del lingotto avrebbe indicato in 7 miliardi gli aiuti finanziari di cui Opel ha bisogno e che dovrebbero essere garantiti dai governi europei interessati. Non solo la Germania, quindi, perché le attività di GM in Europa toccano anche Belgio, Spagna, Austria, Inghilterra e Svezia. Se la Fiat riuscisse a spuntarla, anche l'Italia dovrebbe fare la sua parte. Ma alla Fiat si oppongono i sindacati, che invece favoriscono il produttore di componenti austro-canadese Magna, alleato con la casa automobilistica russa Gaz e la banca russa Sberbank, perché Magna avrebbe messo sul piatto 5 miliardi e non avrebbe intenzione di rivoluzionare Opel. Nulla si sa del piano Ripplewood, ma come abbiamo già detto, avrebbe poche chance, perché Berlino punta su un partner industriale. Valeria De Rosa, GR24, il sole 24 ore. E ora veniamo alle polemiche politiche sul caso Mills. Ieri, lo ricordiamo, sono state diffuse le motivazioni della sentenza con la quale l'avvocato inglese è stato condannato a 4 anni e mezzo per aver dato una falsa testimonianza in 2 processi in cui era coinvolto Berlusconi. I processi erano, lo ricordiamo, tangenti alla Guardia di Finanza e All Iberian. Mills garantì così a Berlusconi, alla fine investe l'impunità e per questo intascò $600,000. E questo è quello che scrivono i giudici. L'ira del cavaliere è stata già espressa ieri, ma oggi naturalmente ancora se ne discute. Elisabetta Fiorito. Si infuria anche oggi lo scontro politico dopo le motivazioni della sentenza Mills. Per il centrosinistra del premier Silvio Berlusconi non deve venire in Parlamento a riferire, ma andare direttamente in tribunale. Il Partito Democratico insiste, per il segretario Dario Franceschini Berlusconi vuole intervenire in aula alla Camera per autoassolversi e per sollevare un polverone politico. Non ha mai parlato dei problemi degli italiani, sostiene Franceschini, ma in 3 giorni ha approvato il lodo Alfano. La maggioranza fa quadrata attorno al premier per Paolo Bonaiuto. Aiuti, la sinistra non fa proposte sensate e poi si attacca ad una sentenza. Dario Franceschini è giustizialista come Antonio Di Pietro. L'avvocato del premier e deputato del Popolo della Libertà Nicolò Ghedini rivela che in Parlamento Berlusconi farà un discorso politico, ma intanto nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio che si è riunita stamattina non è ancora stato affrontato il tema di quando il Presidente del Consiglio si presenterà qui a Montecitorio nell'aula della Camera. Per il momento è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, noi diamo il buongiorno a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno. Stefano, allora, le motivazioni della sentenza Mills arrivano durante la campagna elettorale, lo sappiamo, per le europee e le amministrative. Al di là, insomma, di chi dice è stato strumentale da parte dei giudici scegliere questo momento per dare le motivazioni, ci potranno, secondo te, essere effettivamente delle conseguenze sul voto? Ma questo è difficile dire. Noi siamo abituati da anni a questo tipo di stillicidio, no? Per cui l'aspetto giudiziario della presenza di Berlusconi sulla scena politica continua da anni con tutta una serie di conseguenze e di polemiche e di risse che sono purtroppo ben conosciute a chi segue la politica. E naturalmente non fa bene tutta questa l'immagine del paese, però si è dimostrato nel tempo che non sposta granché in termini di voti, nel senso che i seguaci di Berlusconi si sentono via più motivati e gli altri trovano proprio nelle sentenze della magistratura ragione per accentuare la loro posizione. Alla fine il risultato un po' è a somma zero. Io penso che il problema oggi sia un po' un altro, questo è poi l'aspetto di novità di questa sentenza Mills. L'idea di Berlusconi di andare in Parlamento e lì diciamo vuotare il sacco contro la magistratura è molto rischiosa perché potrebbe innescare un meccanismo di confronto, di scontro costituzionale di cui davvero il paese non sente il bisogno. D'altra parte anche la richiesta che assomiglia un po' a un'imposizione dell'opposizione, che gli dice no, non venire in Parlamento perché non hai il diritto di farlo, devi subire il processo, anche questo francamente è incomprensibile, perché non si può certo negare al Presidente del Consiglio il diritto e anzi il dovere di presentarsi in Parlamento quando lo ritiene necessario. Quindi siamo in una situazione abbastanza nuova da questo punto di vista, ma anche piena di contraddizioni, e io credo che se ne esca con Berlusconi che va in Parlamento ma trova la misura di un intervento che non accende le polveri di una polemica costituzionale un po' assurda, ma che cerca di spiegare un po' il senso di questa situazione. È un'opposizione che fa l'opposizione e evita di usare questa vicenda soltanto come un'arma elettorale. Stefano, conoscendo l'uomo e seguendo tu la politica da molti anni, ti sembra possibile o probabile che Silvio Berlusconi venga in aula e faccia un discorso, diciamo così, molto lineare dal punto di vista istituzionale? Poco probabile, onestamente, per come lo conosciamo. D'altra parte Berlusconi è un uomo anche accorto in certi momenti, in certi passaggi. Se non fosse accorto non sarebbe sulla scena politica da 15 anni, anche con il successo che ha avuto e che ha. Quindi io credo che alla fine potrebbe anche decidere di non andare in Parlamento se il rischio di risolvere il suo intervento parlamentare in una ringa contro la magistratura si rivelasse del tutto improponibile. Io penso che sia difficile che lui vada in Parlamento e faccia un discorso compassato, ma potrebbe invece scegliere la strada di rinunciare all'intervento se appunto si presentassero le circostanze che consigliano questo gesto di prudenza. La questione è aperta. Grazie Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Naturalmente staremo a vedere che cosa accadrà e dunque se il Presidente del Consiglio andrà alle Camere per commentare, insomma, per parlare di queste polemiche sulla sentenza Mills. Dunque grazie a Stefano Folli e noi passiamo alla cronaca, la cronaca di un anno in realtà, di lotta alla pirateria audiovisiva da parte della Guardia di Finanza. Anche se molti lo dimenticano, scaricare musica da siti non autorizzati o acquistare CD per strada è un reato. Sono circa 355 milioni le canzoni distribuite illegalmente nell'ultimo anno. Ma la musica rubata è fatta anche di dolenti note per chi ne incrementa il mercato. La Guardia di Finanza ha inferto un colpo pesante alla contraffazione di supporti audiovisivi. Il colonnello Alfredo Sanfelice, capo ufficio spese e mercati del Comando Centrale. Abbiamo sequestrato nell'anno scorso circa 29 milioni di prodotti piratati ed è un risultato estremamente rilevante se noi lo confrontiamo rispetto all'anno scorso, dove abbiamo sequestrato 4 milioni e 700 mila pezzi. Che tradotto significa un incremento del 500% dei prodotti tolti dal mercato rispetto al 2007. Resiste la tradizionale vendita per strada di compact disc e DVD, ma la parte del leone ormai la fanno i download. Internet è una frontiera nuovissima che consente l'anonimato da parte di chi lo vende e da parte di chi lo prende. La Guardia di Finanza l'anno scorso, proprio a dimostrazione di questo sempre più crescente peso di internet nella pirateria audio-video, ha sequestrato 19 siti internet. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. E dai DVD illegali parliamo invece di cinema, perché questa sera a Cannes c'è una serata di gala in occasione del restauro del capolavoro di Michelangelo Antonioni, L'Avventura. Alla Montée de Marche ci saranno tutte le sale di Cinecittà di ieri e di oggi. La più attesa Claudia Cardinale, lei che è nata in Tunisia e vive in Francia, si sente italiana, come ha raccontato la nostra Marta Gagnola. È vero che sono italiana, è ovvio, sono di cultura francese perché sono nata in Tunisia, tre generazioni, e ovviamente i miei parenti non hanno mai cambiato la nazionalità, siamo sempre rimasti italiani. Qui in Francia è molto buffo perché spesso mi tolgono la E finale, addirittura nelle fatture della luce eccetera, cioè non c'ho mai la E, allora io dico... Adesso a questo punto non pago più, questo perché non è il mio vero nome, insomma. Quindi lei è legatissima all'Italia e anche al cinema italiano che sta per festeggiare a Cannes. Beh, certamente, io ho avuto la fortuna di arrivare negli anni 60, che era il faro, il cinema italiano nel mondo. Ovviamente c'erano i più grandi registi, cioè io quando ho cominciato facevo 7 film all'anno, insomma, era una cosa incredibile. E infatti Gilles Jacob mi ha invitato proprio per questa gala e questa amicizia franco-italiana. Questa cosa di Cannes è la seconda cosa, perché la prima cosa è un'esposizione incredibile, si chiama L'Age d'Or, cioè l'età d'oro e mitico della realtà del cinema italiano, e io ho fatto tutti i commenti su tutti i personaggi, da Anna Magnani, ovviamente Marcello Mastroianni, Totò, cioè Monica Vitti ovviamente, Sofia Loren, Gina, Silvana Mangano, insomma tutti i personaggi che sono apparsi tra il 50 e il 60. Oggi il ricordo di Michelangelo Antonioni, domani l'omaggio a Sergio Leone, al quale lei è ancora molto legata. Beh, guardi, c'era una volta il West, tuttora c'ho tanti ammiratori che mi scrivono da tutto il mondo, quasi tutti mi chiedono una foto di C'era una volta il West. Per tutte le generazioni è rimasto un film mitico. Io ero circondata da grandissimi attori, in un West è una donna che ha un ruolo importante, è già raro. Quando penso che all'inizio dicevano spaghetti western eccetera eccetera, lo criticavano, e adesso, incredibile, è diventato un mito per i western che ha fatto. Con Sergio è stato un rapporto veramente bellissimo. E questa era Claudia Cardinale, intervistata da Marta Cagnola. Le 13:18:03 nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato di Fiat, perché oggi sono arrivate le tre offerte per Opel, tra cui appunto quella dell'azienda italiana. Abbiamo parlato delle reazioni alle motivazioni della sentenza con la quale è stato condannato l'avvocato Mills, motivazioni che coinvolgono direttamente Silvio Berlusconi. Abbiamo parlato di pirateria musicale e cinematografica, abbiamo parlato del Festival di Cannes che questa sera celebra il cinema italiano. Adesso ci occupiamo di industria. Ce ne occupiamo perché oggi l'Istat ha diffuso i dati relativi a marzo riguardo agli ordinativi al fatturato e sono purtroppo anche in questo caso dati negativi. Calo del 26% per gli ordinativi rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La diminuzione invece nel corso di un mese è stata del 2,7%. Anche il fatturato delle imprese a marzo è calato del 22,6%, mentre su base mensile la diminuzione è stata dello 0,8%. E ce ne occupiamo di industria anche perché domani c'è un appuntamento importante nel quale anche di questi dati si parlerà naturalmente, ossia l'assemblea di Confindustria. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Che cosa si prevede per la giornata di domani? Sì, due giorni di fatto molto intensa per l'intera associazione degli industriali. Oggi l'assemblea privata, domani quella pubblica, la presenza tra gli altri del Presidente del Consiglio Berlusconi, saranno i temi della crescita, della ripresa dell'economia del nostro Paese al centro dell'intervento della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. L'invito di fatto da parte degli industriali a governo, forze politiche e parti sociali tutte affinché abbiano il coraggio necessario per uscire dalla crisi economica. Un appello, quello degli imprenditori, ad aprire finalmente una vera stagione di riforme strutturali, senza delle quali ha per anni, secondo Confindustria, bloccato il paese, contribuendo a condannarlo a tassi di crescita inferiori a quelli dei paesi concorrenti. Ora però è la tesi della presidente Marcegaglia: è necessario fare di più per farsi trovare pronti quando la ripresa economica si riaffaccerà. È una richiesta alle forze politiche, quella che arriva da Viale dell'Astronomia, di smettere quindi di guardare solo al consenso, ma di prestare maggiore attenzione all'economia reale, quella fatta di imprese che competono, di utenti che pagano i servizi, di consumatori che comprano i prodotti. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, vi ricordiamo tra l'altro che domani Radio 24 trasmetterà in diretta l'Assemblea di Confindustria a partire dalle 10.30. Manca meno di un'ora all'inizio del Consiglio di Amministrazione della RAI, che dovrebbe procedere alle prime nomine, probabilmente TG1 e RAI1 almeno per il momento. Sentiamo. In ballo ci sono la guida delle reti e dei telegiornali, ma anche i vice direttori generali e altre promozioni. Il CDA di Viale Mazzini approverà oggi un primo pacchetto di nomine indicate dal direttore generale Mauro Masi. Augusto Minzolini, editorialista della Stampa, andrà a dirigere il TG1. Mauro Mazza, ora alla guida del TG2, passerà alla direzione di Rai 1 al posto di Del Noce, già traslocato a Rai Fiction. È sfumato invece un blocco più corposo di nomine voluto dalla maggioranza e rinviato dal presidente Paolo Garimberti. Decisioni tuttavia che non piacciono all'opposizione, che col capogruppo PD al Senato Finocchiaro parla di invasione politica della RAI. Il vicepresidente della vigilanza RAI Giorgio Merlo riprende ai nostri microfoni le parole del presidente Zavoli, che aveva parlato di rischio per il pluralismo. Un'azienda che conta migliaia di giornalisti, sarebbe importante che il vertice del principale PD fosse scelto all'interno dell'azienda. Sempre per rifarmi alle parole del presidente Zavoli, sarebbe auspicabile che nella scelta dei dirigenti ci fosse un riconoscimento pieno del pluralismo. Se questo principio dovesse essere un po' calpestato, credo che queste nomine si esporrebbero a qualche contestazione. Passeranno invece altri 4 nuovi vice direttori generali. Antonio Marano, attuale direttore di Rai 2, avrà la delega alla produzione. Gianfranco Comanducci si occuperà delle risorse umane. Lorenza Lei avrà competenze sulle risorse artistiche. Giancarlo Leone dei nuovi media. Voto contrario è annunciato dai consiglieri di opposizione Rizzo Nervo e Fanstraten, che invocano il risparmio a fronte dei 4 super manager che usciranno oggi dal CDA di Viale Mazzini. Alessio Maurizio, GR24, Il Sole 24 Ore. Noi continuiamo a parlare di televisione perché inizia oggi la fase di transizione verso il digitale terrestre nel Piemonte occidentale, un'area, quella delle province di Torino, Cuneo e parte dell'Astigiano, dove abitano quasi 3 milioni di persone. Torino è la prima grande città a passare al digitale dopo Trentino, Valle d'Aosta e la Sardegna, dove il trasloco alla nuova tecnologia è già completato da mesi. Sotto la Mole, in altri 567 comuni del Piemonte occidentale, si inizia oggi con Rai 2 e Rete 4, che dalle 2 della notte scorsa hanno spento il segnale analogico e sono visibili solo sulle nuove frequenze, dotando ogni TV di un apposito decoder o acquistando un nuovo televisore. Il risultato finale è che aumenta il numero di canali. Per la Rai, ad esempio, sono in onda anche Rai 4, Rai News, Rai Gulp per i bambini, Rai Sport e Rai Storia. In Piemonte la fase di transizione al digitale terrestre verrà completata per tutti gli altri canali il 9 ottobre. Il 16 giugno si parte a Roma e nel Lazio, il 10 settembre in Campania. Le altre regioni seguiranno entro il 2012. Infine un'avvertenza: quando acquistate un nuovo videoregistratore verificate che sia abilitato alla nuova tecnologia, perché purtroppo sugli scaffali di molti negozi girano ancora parecchi prodotti obsoleti. Tutto ok invece per le nuove TV. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. Vi abbiamo parlato in apertura di questa parte di XL delle difficoltà dell'industria italiana e adesso torniamo su un altro aspetto della crisi molto particolare. E sì, pare che molti giovani, appunto in mancanza di lavoro, si stiano sempre più rivolgendo al servizio civile, che comunque garantisce uno stipendio, seppure insomma relativamente basso, comunque buono nei momenti in cui non c'è altro da scegliere. E quindi le richieste, come dicevamo, del servizio civile hanno registrato un vero e proprio boom. Giovani, carini e disoccupati, titolava una pellicola di qualche tempo fa. Si potrebbe aggiungere sempre più impegnati nel sociale, visto che i ragazzi fra i 18 e i 28 anni interessati a fare un anno di servizio civile sono sempre di più. I posti per il 2009-2010 sono 25.000, ma le richieste arrivate il doppio. Buona volontà, certo, ma spesso anche necessità. 433 euro al mese di stipendio sono sempre meglio di nulla. Così il servizio civile è diventato un'alternativa ai call center, ai McDonald's e alla disoccupazione. Prima era solo un fenomeno legato al Sud Italia, oggi si è allargato anche al centro e al nord, come spiega il presidente di ARCI Servizio Civile, Licio Palazzini. Perché anche al centro nord le possibilità di trovare lavoretti, fra virgolette, si sono drammaticamente ridotte. E purtroppo questa chiave di lettura non può essere esclusa. Però l'elemento positivo è che durante l'anno di servizio civile cambia l'approccio dei giovani e cambiano anche le aspettative, crescendo in termini di impegno civile e sociale finita l'esperienza di servizio civile, che è un investimento strategico per questo paese. Intanto diminuiscono i fondi stanziati in finanziaria, tanto che nel 2006 erano 57.000 i posti da assegnare. Nel 2007 sono scesi a 51.000, quest'anno sono appena la metà. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. La Formula 1 è attesa per le 14 la sentenza del Tribunale di Parigi sul ricorso presentato dalla Ferrari contro la Federazione Internazionale dell'Auto. Al centro della disputa c'è sempre il taglio del budget annuale dei team deciso dalla Federazione. È bocciato, oltre che dalla Ferrari, anche da Renault, Toyota e Red Bull. La scuderia di Maranello contesta il mancato coinvolgimento nella decisione. La Ferrari ha infatti diritto di veto sulle decisioni relative al regolamento. Alessandra, dalle 4 alle 2 ruote? Eh sì, parliamo di ciclismo, Giro d'Italia. La parola naturalmente a Dario Ceccarelli. Sì, grazie, ciao Alessandra, ciao Simone. Niente, oggi è una tappa di attesa. Oggi si va in Liguria, si va da Renzano passando per il Turchino, ma è una tappa appunto per velocisti che prefigura quello che sarà il grande scontro di domani, cioè quello nella crono, una specie di crono scalata, una crono che è delle 5 terre di 60 km che darà un po' il segno distintivo alla Giro d'Italia. In questo momento è in testa Di Luca, che ha dominato anche ieri nella Cuneo Pinerolo, però ha un vantaggio non sufficiente a garantirgli comunque una rendita fino a Roma. Per cui domani si vedrà se, non essendo lui specialista a cronometro, se riuscirà a mantenere questo vantaggio. I suoi avversari più accreditati sono il russo Menchov, che ha 1,20, e poi ci sono altri big stranieri. L'unico che può essere il vero contraltare italiano è Ivan Basso, che però è a 2 minuti. Ivan Basso viene da due anni di sospensione e quindi va un po' valutato giorno per giorno. Comunque lui è sicuramente l'avversario che può impensieri veramente Di Luca. Quindi un pensiero a quello che succede oggi con la volata, ma soprattutto un pensiero ancora più importante per domani quando ci sarà il cronometro. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Sono state presentate al governo tedesco le 3 offerte per acquisire Opel, ci sarebbe un fondo americano, il gruppo Magna e naturalmente Fiat. Ancora polemiche sulle motivazioni della sentenza Mills, Franceschini dice il Premier verrà in Parlamento per autoassolversi. Ancora un forte calo per fatturato e ordinativi dell'industria a marzo, meno 22,6% per il giro d'affari, meno 26 per gli ordini. C'è un boom di richieste per il servizio civile, sono il doppio dei posti disponibili. Pirateria audiovisiva, nel 2008 aumentano di 5 volte il numero di CD e DVD sequestrati dalla Guardia di Finanza. La prima donna italiana a fare l'astronauta si chiama Samantha Cristoforetti, lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Europea. Since I came to this house 30 years ago, I've always felt that the house is at its best. La voce che sentite è quella di Michael Martin, speaker della Camera dei Comuni inglese, che come sapete ieri si è dimesso. In 4 secoli di storia non era mai successo. A lasciare quindi è stato il corrispettivo, per intenderci, del nostro presidente della Camera. La questione è quella dello scandalo dei rimborsi. Insomma, alcuni parlamentari britannici, sia laburisti che conservatori, ne avevano ottenuti di non dovuti. Insomma, non potevano richiederli. Ecco, diciamocelo molto chiaramente che oggettivamente a noi, conoscendo la nostra classe politica, sembra poca cosa, ma in Inghilterra sta scatenando un terremoto politico. Tanto da arrivare appunto alle dimissioni. Esattamente. In Italia vicende simili hanno al più generato qualche sussulto di coscienza. Sergio Rizzo, giornalista del Corriere della Sera, autore insieme a Gian Antonio Stella del fortunatissimo La Casta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Sergio, cerchiamo di capire innanzitutto come funzionano da noi i rimborsi dei parlamentari. Ma insomma, che da noi non c'è bisogno di fare la cresta sul taxi, ecco. Il sistema funziona in un modo un po' diverso. Si può dire con un pizzico di malignità che la cresta già monte, nel senso che fra le varie voci che compongono gli emolumenti dei parlamentari italiani ci sono anche previsti dei rimborsi per il telefono, dei rimborsi per i viaggi da e per l'aeroporto, dei rimborsi per le cure mediche, c'è un'apposita cassa integrativa, non molto diversa tra l'altro da quella dei giornalisti, anche se forse un po' più ricca, e poi c'è il famoso fondo per il portaborse, che abbiamo visto ha generato molte polemiche, no? Perché si è scoperto a un certo punto che pochissimi di questi portaborse, cioè i collaboratori parlamentari, erano oggettivamente contrattualizzati, e quindi che queste 4.000 euro al mese, perché tanti sono i soldi, e venivano poi utilizzati dai parlamentari. Quindi, Sergio, la sostanza è che l'unico rimborso vero e proprio che prendevano i parlamentari italiani, in parte se lo intascavano a tutti gli effetti. Sì, l'ho già detto, usando una formula un po' maligna, ecco, si potrebbe dire che la cresta era già a monte. Ecco, allora sentiamo, vogliamo, Sergio, vogliamo sentire un esempio di cresta a monte? È però un bicameralismo perfetto che non regge. Per quanto riguarda le strutture e i servizi della Camera dei Deputati equiparati a quelli del Senato. Incredibile dictu, al Senato oggi senatori in carica, ex senatori, deputati in carica, ex deputati, parlamentari europei vanno dal barbiere gratis. E questo era il senatore Emerenzio Barbieri dell'UDC, insomma, che aveva sollevato un caso. Lamentandosi sostanzialmente per un mancato privilegio. Sergio. Sì, insomma, intanto non posso fare a meno di sottolineare la coincidenza fra il nome del parlamentare e l'oggetto della discussione. Il nome, sì. Quindi chissà, forse c'è anche una ragione di altro tipo. Però vi devo dire in tutta franchezza che intanto va sottolineato che i parlamentari inglesi guadagnano molto di meno di quelli italiani, e quindi non so, certe debolezze, anche se non sono giustificabili, però forse sono comprensibili. Da noi, ripeto, il meccanismo è completamente diverso, cioè la quantità dei privilegi è tale da coprire pressoché tutte le esigenze del singolo parlamentare. Non c'era soltanto il barbiere gratis, tra l'altro adesso non è più così per fortuna, ma basta andare a vedere quali erano i prezzi della mensa, i prezzi della buvette. Sergio, brevissimamente, tu qualche tempo fa hai pubblicato un bel pezzo sul Corriere della Sera sui doppi incarichi. Ecco un'altra cosa che in qualche modo suscita scandalo e che probabilmente in Inghilterra porterebbe a dimissioni immediate da una parte o dall'altra, cioè a seconda di dove si ha l'incarico e quale incarico si sceglie. E sono emersi dei casi assolutamente, come dire, assolutamente eclatanti. Sì, dei casi assolutamente eclatanti, perché sono innanzitutto contro ogni previsione di legge. Cioè, in Italia c'è un provvedimento di legge che stabilisce che non si può fare il parlamentare e contemporaneamente essere sindaco di una città con popolazione superiore a 20.000 abitanti, né essere contemporaneamente parlamentare e presidente di giunta provinciale. Ebbene, ci sono in Italia, nel Parlamento italiano, 5 sindaci di città con popolazione superiore a 20.000 abitanti e 2 presidenti di giunta provinciale. E la cosa è una fattispecie assolutamente incredibile, ma la cosa più incredibile è che la denuncia di questi fatti non abbia portato assolutamente a nessun intervento da parte dei responsabili del Parlamento. Io penso che in qualsiasi altro paese d'Europa lo speaker del Parlamento si sarebbe dimesso molto prima, ma per queste cose, non tanto per le creste sulle note spese. E nel Parlamento italiano c'è poi un'altra questione da dire, che è vero che è legale fare il sindaco e il parlamentare del paese o la città a meno di 20.000 abitanti, ma che ce ne siano una settantina forse, diciamo, qualche problema lo pone. Non fosse altro perché tutti questi amministratori pubblici di comuni piccoli o relativamente piccoli, cosa fanno? il giorno in cui devono votare in Parlamento? Stanno in Parlamento oppure stanno a fare il loro lavoro di sindaco? E beh, insomma, poi anche i dati della, come dire, della presenza dei deputati e dei senatori al momento del voto, comunque sì, durante le discussioni, qualche più che altro. Che significato lo avrà? Grazie Sergio Rizzo per essere stato con noi e per averci aiutato, diciamo, a fare un po' questo raffronto. Noi torniamo in Inghilterra adesso. Torniamo appunto sulla questione di cui abbiamo parlato, sul nodo sia i rimborsi elettorali inglesi. Come ne parlano i giornali britannici? Lo chiediamo a Giulia Crivelli. Buongiorno. Giulia. L'apertura di tutti i giornali britannici ed è molto interessante l'angolo da cui la prendono, perché il Times, per esempio, titola con due parole a tutta pagina: New Order, cioè un nuovo ordine. La foto bellissima è quella di una di queste finestre antiche, quasi da museo, dell'ufficio dei Commons dove stava il signor Michael Martin, che da ieri è stato praticamente costretto ad andarsene. Il punto che veramente, oppure vi cito The Guardian, che titola End of the Gentleman's Club, quindi fine di questo club privato. Quindi il punto non è tanto le creste, come dicevate voi, che sono state fatte, quelle sono gravissime, c'è chi restituirà i soldi, chi magari ci darà ulteriori dimissioni. Il punto è che da questo momento in poi, ed è qui forse mi collego a quello che diceva Sergio Rizzo, che veramente la situazione è diversa in Inghilterra, questo scandalo ha portato immediatamente alla richiesta, e che verrà probabilmente attuata in pochissimo tempo, di togliere ai parlamentari il diritto di decidersi le proprie regole che riguardano i rimborsi spese e un sacco di altre cose. Ci saranno degli indipendenti che decidono questo. È per questo che si titola Fine del Club dei Gentlemen, è perché è chiaro che è difficile chiedere anche ai nostri parlamentari, no, di togliersi da soli dei privilegi, bisogna chiedere a qualcuno che sta fuori e glieli toglie, e se è così va bene, se non è così dimissioni come il signor Martin. Giulia, passiamo dalla casta e dai privilegi, passiamo a parlare di un re. Sì, questo è il titolo di Le Figaro, sappiamo quanto i francesi tengano alla loro storia, giustamente, quanto siano orgogliosi del loro passato, e in questo caso Le Figaro ha un ritratto, una foto purtroppo non può essere, ma un ritratto di Re Luigi XVI, sono state ritrovate, è stato ritrovato il testamento originario che era stato redatto il 20 giugno del 1791, darà naturalmente molto lavoro agli storici, e poi così l'occasione forse appunto di guardare al passato, visto che anche in Francia il presente è molto problematico, quindi perché no ripescare un pochino di quel periodo, magari anche poi ripensando a tutto quello che è successo dopo la rivoluzione francese eccetera. Grazie Giulia Crivelli, con te ci risentiremo domani naturalmente per la rassegna stampa internazionale. Noi ora torniamo in Italia per parlare di un'iniziativa che riguarda i minori scomparsi. Andrea Viali. Figli contesi tra genitori di nazionalità diverse, un fenomeno in crescita nel nostro paese, dove con l'aumento dell'immigrazione aumentano anche i matrimoni misti, e in caso di separazione o divorzio capita spesso che uno dei due coniugi decida di tornare nel paese d'origine portando con sé i figli. Si tratta di casi che danno vita spesso a controversie giuridiche di difficile soluzione. Per meglio gestire il fenomeno, il governo italiano ha deciso di creare una task force sulla sottrazione internazionale dei minori, di cui fanno parte il ministro degli Esteri, dell'Interno, della giustizia e delle pari opportunità. Così il ministro della giustizia Angelino Alfano. Credo che abbiamo fatto una buona cosa nel decidere di effettuare un intervento coordinato, perché troppi bambini sono contesi tra genitori di nazionalità differente. I casi di minori contesi erano 89 nel 1998, mentre oggi sono 258, ha ricordato il ministro degli Esteri Frattini. Lo scorso anno, ha aggiunto il responsabile della Farnesina, sono stati risolti 50 casi, altri 19 invece nei primi mesi del 2009. Il ministro dell'Interno Maroni ha invece annunciato che il prossimo 25 maggio verrà attivato un numero verde, l'116000, destinato alla segnalazione di casi di scomparsa di minori. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo adesso nello spazio, forse un pochino esagerato. C'è in studio con noi Gigi Donelli. Gigi, l'abbiamo dato poco fa nei titoli, abbiamo un'astronauta italiana. Sì, assolutamente, una prima assoluta nella storia italiana. Pochi minuti fa a Parigi, sede dell'Agenzia Spaziale Europea, sono stati annunciati i nuovi 6 astronauti appunto europei, quelli che formano la squadriglia degli uomini pronti al volo, si sarebbe detto fino a poco tempo fa. Samantha Cristoforetti, classe 77, tenente dell'aeronautica, sarà dunque la prima italiana autorizzata a volare nello spazio. Una scelta che era stata attesa e anche auspicata, però va chiarito, forse leggendo il suo CV, il suo curriculum, che insomma la scelta di questo militare, di fatto di questo astronauta, è tutt'altro che scontata, che evidente. Lei ha una formazione molto particolare e gli studi l'hanno portata negli anni tra la Germania, gli Stati Uniti e la Russia, un notevole curriculum che poi è stato integrato dall'attività appunto nell'aeronautica, dove tra l'altro negli ultimi 3 anni del suo corso è risultata in assoluto la prima del suo corso. Quindi, come dire, si potrebbe pensare che ancora una volta, per avere una donna in un ruolo, forse mi rivolgo più ad Alessandra in questo contesto, per avere una donna in un ruolo che dovrebbe essere di tutti, è stato necessario trovare qualcuno che sembra veramente fuori dall'ordinario. Primeggiare, assolutamente primeggiare. Eccellenza assoluta. Grazie Gigi Donelli per questo racconto. Le 13:48 minuti, 14 secondi, ci spostiamo appunto in Iran. In Iran, perché questa mattina è stato testato un missile a lunga gittata che potenzialmente potrebbe colpire Israele. E intanto il ministro degli esteri Franco Frattini parte proprio oggi per Teheran, visita ufficiale a partire da domani, quando incontrerà il primo ministro degli esteri iraniano, il presidente del Parlamento e il riformista Khatami, che fu presidente dal 97 al 2005. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, grande esperto di Iran. Allora, quali saranno i temi trattati da Frattini? Beh, a livello diplomatico sicuramente ci sarà la questione del G8 di Trieste, la riunione che dovrebbe esserci a giugno ai margini appunto del G8, riguardante la sicurezza e la stabilizzazione dell'Afghanistan. Il coinvolgimento iraniano viene ritenuta una delle pedine fondamentali per cercare appunto di stabilizzare l'Afghanistan, che come sappiamo oggi vive una delle sue stagioni più turbolente. Alberto, l'invito a Frattini era arrivato a febbraio dalla diplomazia iraniana, una visita che è stata però più volte rinviata per le pressioni di Israele. Cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa? Ma soprattutto è cambiato il fatto che c'è stata un'accelerazione nei rapporti, perlomeno nel dialogo tra Washington e Teheran, e questo è stato il fattore fondamentale. Già si era visto durante il finale della presidenza Bush che c'erano stati tentativi di apertura nei confronti di Teheran, e poi con Obama sappiamo bene un po' qual è stata l'escalation di questa apertura di dialogo. Un dialogo certamente difficile, complicato, un dialogo che non è ancora diventato effettivamente un negoziato diretto, ma in cui l'Europa e soprattutto l'Italia ha un ruolo non indifferente, perché l'Italia è da tantissimi anni uno dei principali partner economici dell'Iran, ma anche un partner che ha saputo in qualche modo esplorare politicamente la situazione iraniana, tant'è vero che quando ci fu il bando degli ambasciatori europei negli anni 90, poi fu l'Italia il primo paese a ritornare appunto a riaprendo l'ambasciata di Teheran. Alberto, un dialogo, tu dicevi, ancora insomma difficile, quello con l'Iran. Come interpretare a questo punto la notizia che abbiamo dato, notizia di questa mattina, del fatto che è stato testato un missile a lunga gittata che potenzialmente può colpire Israele? Ma certamente non è per l'altro la prima volta che viene testato un missile in cui si dice che abbia la potenzialità di colpire a migliaia di chilometri anche Israele. Poi bisognerà vedere se questo test è stato effettivamente realizzato o no, perché non so se ricordate, qualche mese fa ci fu un analogo annuncio e poi si scoprì che in realtà si trattava più di un lancio mediatico che non di un lancio effettivo. Questa, come la questione ovviamente del nucleare, che ha una valenza internazionale perché coinvolge oltre all'Europa, all'Italia, agli Stati Uniti e la Russia e la Cina, chiaramente è la questione fondamentale. Il riarmo dell'Iran e le sue potenzialità militari, che sono poi funzionali a che cosa? Funzionali per l'Iran della Repubblica degli Ayatollah a ottenere una sorta di riconoscimento come superpotenza regionale. Bisogna vedere se appunto in questo negoziato, in questo dialogo a distanza con gli Stati Uniti, che potrebbe forse diventare un negoziato, ci si arriverà prima o poi a questo famoso riconoscimento, in cambio ovviamente della collaborazione iraniana su molti fronti, da quello afghano a quello iracheno a quello libanese e poi allo scottante dossier palestinese ad Hamas. Grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Ora ci spostiamo in Egitto per una decisione che sta creando problemi diplomatici. Ce ne parla Dib Fateh Ali. Grande esultanza nelle file dell'opposizione egiziana per una sentenza che obbliga il governo a cancellare la cittadinanza agli egiziani sposati con donne israeliane. Grave danno per la sicurezza dello Stato nel senso più alto del termine. Questa è la motivazione del Tribunale amministrativo che sta mettendo in forte imbarazzo il governo del Cairo, impegnato in prima linea nelle trattative di pace tra palestinesi e israeliani. Per gli islamici, i figli di madri ebree di 30.000 egiziani emigrati in Israele, diventando soldati dell'esercito del nemico, costituiranno una grave minaccia alla patria. A seguito degli accordi di Camp David, i due paesi sono legati da un trattato di pace siglato a Washington nel 1979. Gera Extra Large, un rapido riepilogo delle notizie della giornata. Sono state presentate al governo tedesco le tre offerte per acquisire Opel, ci sarebbe un fondo americano, il gruppo Magna e naturalmente Fiat. Polemiche sulle motivazioni della sentenza Mills, Franceschini dice il premier viene in Parlamento per autoassolversi. Ancora un forte calo per fatturato e ordinativi a marzo, meno 22,6% per il giro d'affari, meno 26% per gli ordini. La prima donna italiana a fare l'astronauta si chiama Samantha Cristoforetti e lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Europea. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Cece con in regia Filippo Aureggi. Prossimo GR alle 15 con Extra Large, ci sentiamo domani alle 13. GR 24, il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.